stavo guardando anch'io su eBay, perché come me l'hai descritto era su eBay, però non ne ho trovato. E sicuramente perché sapevo che Francesco aveva, ne aveva una di parte elettrica di una Game Master e l'aveva, la stava vendendo. Ora sì, sia quello. Ok, infatti c'è anche la fotografia, c'è anche la fotografia della parte elettrica, sì. E vabbè, ma è marzo del 2018, dunque adesso ho visto la data, o lui non mi ero accorto della data, per cui è tutto da rifare. E allora è venduta, sarà venduta quella, senz'altro è così. Ok, dai, io vi lascio perché devo andare a mangiare e poi devo uscire. Ci sentiamo, buon proseguo di serata, buon tutto, ci riascoltiamo alle prossime. Ciao Luca, ciao Giulio, guardatelo, faccio il pensierino a uno di quelli che vedrai che è meglio di quello che stai usando. Ok, dopo lo guardo, adesso ho giù il telefono, che poc'anzi era scarico e dunque l'ho messo a caricare, penso che adesso sarà anche già carico, comunque giù. Va bene, riprendi Luca, ciao Fra, intanto ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, vai Luca. Ehi, ciao Fra, alle prossime. Vabbè, già lo sai, calamari, se ne prendi qualcuno in più dopo, quando vai, pensami. Ancora non mi sono andato. Giulio, quando lo vedi, quello lì lo sto usando adesso. Sì, alla grande, ma tu stai arrivando veramente alla grande, Fra, veramente bene, molto ma molto bene. Meglio così, dai. Va bene, dai. Stai andando via, allora ti saluto di nuovo, Fra. Fatti sentire. O qua oppure là, è uguale. Però prova in tutti e due i posti magari. Perché alle volte o siamo in un posto o siamo nell'altro. Oppure siamo sul 10 o sul 23 o sul 20. Provare tutti quanti, perché siamo un pochino volubili, siamo noi, no? Ci spostiamo continuamente, capito? Ciao a tutti. Ok, ciao Fra, avanti Luca. Eia, ciao Fra. Sì, giù, quello era un posto vecchio, ma ci sono robe di 10 anni fa anche su internet, sui mercatini, devi solo stare attento a come si legge, capito? Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti. Nessuno ne ha voglia, non ne hanno voglia, no. Va bene, comunque abbiamo fatto una bella ruota, sempre meglio di davvero ieri, capito? Molto, molto meglio. Vabbè, comunque, volevo che ti dica. Abbiamo sopportato tante di burrasche e ne sopporteremo ancora, sicuramente, o... o lui che anche Amazon vende la Game Master, altre maniere di pure Amazon, tutto ha, questo Amazon ha tutto, qualsiasi cosa che tu chiedi ha. Sì, e poi è ottimo Amazon, perché ti spedisce la roba a me, molte cose che ho preso da Amazon mi sono arrivate il giorno dopo, la mattina dopo ce l'avevo in casa, ma ti rendi conto? Neanche eBay, neanche gli altri siti è così, come Amazon, veramente. Sì, è un bel negozio veramente, intanto di tutto indistintamente, poi a livello mondiale, Amazon. Io tempo fa ho ordinato le batterie per l'avvitatore elettrico, Makita, no, cioè la batteria. E in origine ci sono due batterie, da un ampere. Giulio, sei sparito. Aspetta che è saltato, si vede che è a pochi secondi, non è a un minuto, è a pochi secondi regolata questa cosa, però non lo posso... Ma non è che hai la batteria scarica, no? Di nuovo scattato. Tutte e due batterie, 34 euro, ti puoi immaginare. E a Sassari volevano... Giulio, sei sparito. Sì, aspetta, la batteria cambia, aspetta. Eia. Kappa. Ecco Luca, mi senti adesso? Sì. Stavo guardando però su Amazon appunto 160 euro costa ed io non riesco a venderla a 100 euro, ma te lo immaginesti? Perché non è anche così. Purtroppo la gente è così. Non so, d'altronde cosa ci vuoi fare. ma prima o poi qualcuno gliela comprerà, vedrai. È già in soffitta, paghiscia, caravù, capito? No, già non mi ha preso io, no, come ne ho tutti nuda. Caravù, già in soffitta, tanto la cattura, già giù buccia. Io lo grido, non te ne chiede il pane intanto, quando, quando non la prendi, prima o poi qualcuno la vorrà. Però te, per il momento non te ne chiede il pane. Ui, ui, ui. E ti stavo dicendo, queste due batterie praticamente, queste che l'originale erano da 1,3 A l'una, mentre queste che ho comprato io, 34 euro, tutte e due le batterie conforme all'originale, addirittura da 3 A l'una, il doppio della potenza, ti puoi immaginare, Luca? Almeno sì, ci vogliono quegli ampere lì, 4, capito? Perché sennò si scaricano subito. Ma qua non fa più a comprare, boh. È l'avvitatore che io ho usato per tanti anni, l'avevo comprato a Sassari da Carboni, l'avevo comprato, sì, da Carboni. L'avevo pagato 160 euro, l'avevo pagato, con valigetta e tutto, chiaramente, però l'ho usato per anni e anni, ma avvitavo viti anche lunghi, anche 18 centimetri ho avvitato, lunghi 18 centimetri, quando facevo ad esempio le verande, eccetera. Era una meraviglia quell'avvitatore. E caspita, e cos'era? Makita? Makita, allora è di marca, non è certo di quelle marche fasulle che vendono da Elettino, oi. Questo è di marca proprio, Makita, professionale, no? Infatti Makita sono le migliori. E capita a evitare dei tirafondi così, già lo credo. Sì, appunto, te lo sto dicendo, quando facevo veranda, eccetera, no? Ci volevano delle viti molto lunghe, sai, per le travi, eccetera. E ho avvitato anche viti da 18 cm di lunghezza, se puoi immaginare. Anche il tassellatore, che anche quello è Makita lo stesso. Sono tutte attrezze che io usavo per il lavoro, no? Non è che potevo comprare giocattoli, no? Dovevo comprare roba buona. Ma guarda, io c'ho un avvitatore, l'ho comprato, forse 4 anni fa, 5 anni fa, della Parkside. È la verità, guarda, funziona sempre bene, la batteria dura, c'ha la frizione, c'ha tutto. E funziona bene, nonostante sia Parkside. Però l'avevo preso appunto all'Idol. E ho visto che funziona sempre bene comunque. Certo, Makita è Makita, lo puoi idratare pure in cantieri. Certo, gli allugrillo che puoi usare anche in cantiere. Sì. Ma se l'ho usata addirittura con le punte da muro, e ho bucato anche il muro, penso un po'. Io lo credo, vanno alla grande, sono Makita o altra cosa. Anche perché gli ingranaggi non sono di plastica, come certi avvitatori che hanno l'ingranaggio di plastica. Uno, finché lo usa per hobby, così va anche bene, ma per usarlo professionalmente ci vuole roba buona. Roba buona, soprattutto la batteria che duri. Infatti, soprattutto la batteria che duri, già lo credo. Quando era nuova già durava, però poi con l'andare del tempo, con tutte le ricariche che hanno avuto con le batterie, chiaramente io sono andato in tilt, che ce li ho sempre, però adesso ce li ho nuove, adesso che non sto più lavorando ce li ho nuove. Ultimamente invece mi si scaricavano un po' velocemente, allora dovevo alternare prima una poi l'altra batteria, ma ormai il lavoro l'avevo finito praticamente, per cui non mi interessava. Però visto e considerato che ho l'abitatore, allora ho voluto comprare le batterie nuove, 34 euro appena, ti puoi immaginare. Ottimo prezzo. Questi elettro ormai anche la sega circolare hanno fatto a batteria, hai visto? Sì, ma c'è di tutto, no, non c'è problema. Le seghe circolari, eccetera, la troncatrice a mano, la mola, il cespugliatore, la sega per tagliare gli alberi, di tutto c'è, tutto anche a batteria, no? Non è un problema. Poi ho il tassellatore, da quando l'avevo usato, quando ho fatto l'ufficio per mia figlia, no, in bottega, avevo trasformato l'ufficio, e l'ho usato per impastare. E quello lì, dopo l'ho portato troppo, ma dopo che avevo già finito tutto, e mi si era bruciato. L'ho fatto riparare, ho dovuto cambiare il rotore e anche l'indotto, tutto il motorino praticamente, 80 euro mi è costato. Che hai pita 80 euro? Anche quello macchita, però quello costa nuovo, costa 170 euro e dunque mi è convenuto aggiustarlo, l'ho voluto aggiustare anche se non lo uso più, però non si sa mai, devo mettere un tassello per qualsiasi motivo in casa o che so io, ce l'ho sempre e dunque l'ho voluto aggiustare, capito? Se no cosa me ne fazia di un tassellatore che non funzionava? Ah beh, no, anche i tassellatori appunto a batteria vanno di lusso, devi mettere un tassello su un tetto per un'antenna, cose del genere, non devi calcolare prolunga, eccetera, eccetera. Adesso stavo guardando appunto quelle circolari a batteria, che sono probabilmente molto comode lo stesso. Beh sì, no, perché quel tassellatore avevo messo il frustino per impastare l'intola, come il cemento, eccetera. Ma me ne ha impastato tantissimo. Poi alla fine in un bidone di quelli della tinta era pieno e non c'era molta acqua, l'ho forzato e è cominciato a scaldare e si è bruciato, ma dopo anni di lavoro però, ed è per quello che l'ho fatto riparare lì da Camel e a Predalieda, lì loro hanno l'assistenza, no? 80 euro mi hanno preso più IVA anche. Aspetta, no, io sto cercando dei carboncini per una circolare. Per una circolare, però la circolare quella col disco grande, però, capito? Non riesco a trovarli da nessuna parte questi carboncini. Su internet perlomeno. Qua non lo so se c'è qualcuno che ce li ha. Sì, vai da Canu. O vai da Canu, quello che le ripara, dove c'era una volta l'auto ricambi Torres, lì dentro. A sinistra giù, dopo dove c'è l'autoricambi Torres, c'è un meccanico, uno che fa questi lavori. E lì lui ce li ha le cose, le spazzole, perché io le avevo comprate per altri attrezzi, le avevo comprate, tipo ad esempio per il carro armato, c'è cioè una levigatrice di legno, le avevo comprate. Oppure vai lì da Camel. A Predagneta e lì lui ce l'ha a tutto, capito? Tutti i ricambi ce li ha. Dici che li trovo lì, perché una volta li avevo comprati per la molessa lì di fronte dove c'era, non ricordi, in Bricomba, Portobello prima, non ricordi, lì di fronte a Portobello c'era uno che vendeva ricambi di queste robe. È lì vicino c'è Camel. Nella curva, un Portobello era nella curva, no? Appena prendi un pochino la salita, andando verso il punto, diciamo, no? dopo la curva dove c'è la Portobello, sulla sinistra salendo c'è l'insegna anche, Camel, c'è scritto Camel, e lì c'è un negozio, entra dentro e già lui è già in ricambi, già tutto. Probabilmente lo stesso. Ehi, a me un attaccaccio di batteria. Oggi ti devo lasciare, dai, che lo metto sotto carica, se no mi si spegne durante quando sto parlando e mi dà fastidio, capito? Lo metto un sotto carica, al limite ci sentiamo domani che c'è un attacca. Speriamo non si spenga. Sì, ti ho sentito. D'accordo, Lu, a domani, dai. E anch'io adesso me lo metto sotto carica, perché io ho anche la batteria qua da 3800 mAh. Questa che sto usando adesso è da 1800. La originale, mentre invece avevo preso anche quella da 3008, quella scarica, adesso la rimetto tutta a caricare, vabbè. Ciao Lu, grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo domani, ciao. Io giù, ciao, grazie a te per la chiacchierata. Adesso vedo se ci sono quelle maggiorate, le batterie, anche per questo. Va bene, ci sentiamo domani, giù, ciao, buona serata. Ciao, ciao Lu, altrettanto a te, buona serata, ciao, ciao. Ciao.